Focus Economia. Buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta, Focus Economia. Diversi i temi che affronteremo in questa puntata. Oltre al consueto approfondimento di borsa, parleremo dell'Iran, che dopo l'accordo di luglio sul nucleare si riapre alle economie occidentali. L'Italia punta ad essere protagonista del rilancio di Teheran, da qui la missione governo imprese di ieri ed oggi nella capitale iraniana. Ed ancora l'Ilva di Taranto si riaccende l'alto forno numero 1, domani la ripartenza dell'impianto, rimasto fermo per 2 anni e mezzo per essere adeguato alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale. Una buona notizia per l'occupazione, per un settore vitale per il nostro paese che, viste le vicissitudini degli ultimi anni, vede un segno meno nella produzione che necessariamente deve essere invertito. Quindi il turismo con le stime di Federalberghi. Ne parleremo tra brevissimo. 30 milioni di italiani in vacanza, quasi il 9% in più rispetto allo scorso anno. Questo è il nostro percorso di oggi. Scriveteci allora al 349-238-6666 oppure sulla pagina di Focus Economia del sito di radio24.it. Ma l'attualità incombe, uno sguardo veloce ai mercati, contrastati quelli asiatici, male tra gli europei e Atene, che anche oggi segna un meno 3%, non sembrano però risentirne le altre piazze continentali. Milano più 1,72% in questo momento, Francoforte 1,66%, Londra 0,77%, Parigi più 1,67%. Wall Street in rialzo, con gli investitori che digeriscono una serie di dati macroeconomici. In base al rapporto ADP, nel settore privato a luglio sono stati creati 185.000 posti di lavoro, meno comunque dei 215.000 attesi dagli analisti. Euro su dollaro 1,087. Sempre per l'attualità, da ricordare ancora un voto di fiducia, e qui ci saranno molte polemiche. Se volete ce lo potete scrivere al 349-238-6666 per il voto di fiducia per il governo Renzi. Quello di oggi è il numero 44 ed è stato utile per la conversione in legge del decreto sui fallimenti di imprese. Il decreto prevede norme per l'accesso al credito facilitato per permettere il risanamento delle imprese in crisi, misure per migliorare la concorrenza nel concordato preventivo e nuovi parametri per gli accordi per la ristrutturazione del debito, che potranno essere sottoscritti se vi aderisce il 75% dei creditori finanziari, banche e altri intermediari che rappresentano almeno la metà dell'indebitamento. Quindi 44esimo voto di fiducia per il governo Renzi. Questo per quanto riguarda la strettissima attualità, questo in generale il nostro sommario. Passiamo ora alle notizie in breve. Partiamo come sempre dall'oro, che scende dello 0,2% a 1.088 dollari l'oncia. Petrolio sale dello 0,8% a 46,1 dollari al barile. E poi ancora la Grecia, sempre al centro del nostro interesse. La Grecia è prossima a concludere un accordo con i creditori internazionali, un accordo che prevede la concessione di un terzo pacchetto di aiuti finanziari internazionali che porrà fine a qualsiasi timore che Atene possa lasciare la valuta unica, lo dice il premier Tsipras. Siamo arrivati alla fase conclusiva, spiega, stiamo per finalizzare l'intesa con le istituzioni, malgrado le difficoltà che ci troviamo ad affrontare, speriamo che l'accordo possa porre fine al clima di incertezza sul futuro della Grecia. E la Grecia ha collocato titoli di Stato a 6 mesi per 812,5 milioni di euro, il rendimento resta fermo al 2,97%, così come rimane stabile la domanda con un rapporto di copertura pari a 1 a 3. Ed ancora Grecia, la BCE ha lasciato la liquidità d'emergenza fornita alle banche greche a 90,4 miliardi di euro. La stessa banca centrale greca non avrebbe chiesto un aumento, lo riferiscono fonti vicine al dossier. Per quanto riguarda il nostro paese, a dominare sono i dati della produzione industriale, che torna a calare a giugno sia rispetto al mese precedente dell'1,1%, sia rispetto allo scorso anno dello 0,3%. Lo dice l'Istat, che spiega però come nel primo semestre la produzione sia aumentata dello 0,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questo per quanto riguarda la produzione industriale. Poi dati molto confortanti per quanto riguarda il settore auto e moto. Nel primo semestre del 2015 la produzione di autoveicoli aumenta del 44,2%, è la crescita semestrale migliore dall'inizio delle serie storiche. Nel 90, lo comunica l'Istat, anche a giugno c'è un incremento tendenziale a due cifre, ben più 45%. Risultato sorprendentemente positivo anche per le moto. Luglio è stato il miglior risultato dell'anno per il mercato delle due ruote in Italia, secondo i dati ANCMA, l'Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori di Confindustria. Le immatricolazioni sono state 27.629, il 19,2% in più rispetto a luglio del 2014. Sulla produzione industriale interviene anche il Centro Studi di Confindustria. Abbiamo visto l'Istat che ne segnava nel primo semestre meno 1,1 su maggio. Il CSC di Confindustria invece stima un incremento della produzione industriale dello 0,6% in luglio su giugno, quando c'è stato un calo dell'1,1 su maggio, come dicevamo dall'Istat. Nel secondo trimestre l'attività è aumentato dello 0,4% sul primo, aggiunge sempre il Centro Studi di Viale dell'Astronomia. E poi diversi dati da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nei primi sei mesi 2015 le entrate tributarie calano dello 0,2% per aumento delle imposte dirette, più 0,6%, e calo delle imposte indirette, meno 1%. Si confermano in aumento le entrate dell'IVA, che crescono di 747 milioni di euro, più 1,5%, per effetto dell'andamento complessivamente positivo della componente relativa agli scambi interni e dei versamenti dovuti in base all'applicazione del meccanismo dello split payment. E ancora il Ministero dell'Economia, in un rapporto, mette in rapporto le tasse e la casa, una nota sempre dolente. In Italia il gettito derivante dalle principali imposte sul possesso, sulla locazione e sulla compravendita di immobili è stato nel 2014 di 42,1 miliardi di euro contro 42,3 miliardi di euro del 2012. Il leggero aumento del gettito rispetto al 2013 è dovuto principalmente all'introduzione della TASI, che ha determinato un incremento delle entrate di 4,6 miliardi di euro. Per quanto riguarda i prezzi delle case, nel secondo trimestre del 2015 ha continuato a ridursi, seppur lievemente, la percentuale di agenti immobiliari che riportano un calo dei prezzi di vendita delle case. Aumenta invece l'incidenza dei giudizi di stabilità dei prezzi, e quanto emerge dal sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia della Banca d'Italia. Lasciamo un attimino questi temi che ci fanno anche arrabbiare, legati a tasse, casa, fisco. Ci concentriamo sull'estate che, visto il caldo, è in pieno svolgimento. Federalberghi, come al solito, ci dà un punto della situazione quasi a metà dell'estate. Crescono gli italiani che hanno fatto o faranno una vacanza, sono circa il 50%, pari a 30,4 milioni, più 8,6% sul 2014. Per fare un punto su questa situazione sentiamo allora il commento del presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, che ascoltiamo al microfono di Marta Cagnola. Sì, sono dei dati confortanti, anche perché negli ultimi due anni abbiamo avuto una crescita di turismo internazionale, un calo viceversa di turismo italiano. Vedere un'inversione di tendenza sul turismo interno, che per noi è la voce più importante, sono dati sicuramente positivi. Ci fanno sorridere perché sono dei dati, è la prima volta che abbiamo dati positivi negli ultimi mesi, e per cui vogliamo che questa tendenza, ecco, si concretizzi nel tempo. prima di ridere vogliamo aspettare che questi dati positivi si ripetano per più eventi. Italiani che tornano in vacanza, che spendono di più, turisti stranieri. A volte noi diciamo che l'Italia attrae meno gli stranieri di tante mete più recenti, invece gli stranieri continuano ad arrivare. Questo non è assolutamente vero, perché l'Italia continua a mantenere forte il suo appeal turistico sui mercati internazionali. Nelle città d'arte adesso siamo invasi da turisti stranieri, soprattutto turisti nordamericani, cioè turisti che arrivano da quei paesi in cui le economie stanno tirando. Ovvio che nelle nostre città d'arte abbiamo delle problematiche che però noi ci auguriamo di risolvere al più presto, ma pur con queste problematiche l'Italia continua a mantenere il suo appeal turistico sui mercati internazionali. Quindi servono comunque investimenti, diciamo che l'estate serve anche per pensare a quello che si deve fare. Cosa si deve fare? Ma innanzitutto bisogna mettere in piedi un piano sulle infrastrutture, perché noi abbiamo fatto molto molto bene sul tema dell'alta velocità, però abbiamo l'80% del territorio italiano che è di difficile raggiungibilità. Un paese turistico che si rispetti come l'Italia ambisce a essere deve viceversa avere una rete infrastrutturale di trasporti assolutamente efficiente. In secondo luogo noi dobbiamo continuare, anzi fare molto di più su quella che è la promozione del prodotto Italia sui mercati esteri, perché è vero che oggi i dati sono positivi, ma è anche vero quello che diceva lei, che altre destinazioni ci stanno facendo una concorrenza serrata. E in terzo luogo il tema della fiscalità. Oggi gli albergatori in molti casi sono proprietari di immobili, quindi pagano l'IMU, pagano l'IRAP, pagano l'IRES con una pressione fiscale che si avvicina al 70-75%. Dobbiamo fare degli interventi per defiscalizzare ad esempio gli interventi di ristrutturazione all'interno delle strutture alberghiere, per permettere al parco alberghiero italiano di essere all'altezza della sua concorrenza. Le chiedo un'ultima cosa, c'è qualche dato che l'ha stupita favorevolmente in questa vostra indagine? Sì, il boom delle regioni del Mezzogiorno, perché all'indomani di un grido di allarme e dell'annuncio di un piano Marshall per il Mezzogiorno, noi dimostriamo che anche senza il piano Marshall comunque il 48% degli italiani che andranno in vacanza al Sud Italia. Pensiamo solamente cosa potremmo fare in termini di fatturato, di posti di lavoro, qualora questo piano Marshall veramente si dovesse fare. E così dunque le parole di Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, al microfono di Marta Cagnola. Per chiudere le nostre notizie in breve, un rapporto dell'agenzia Bloomberg che farà arrabbiare qualcuno, un rapporto che fa un confronto tra Roma e Milano sotto diversi aspetti. Allora, Milano, scrive Bloomberg, ha mostrato una resistenza alla crisi quasi teutonica, con un PIL pro capite che tra il 2008 è sceso di circa l'8% a fronte del meno 24% della capitale, mentre in Lombardia la flessione si è fermata nel 2012, a Roma continua tuttora. Anche i dati sulla disoccupazione premiano Milano, 8% contro l'11% di Roma e oltre il 12% a livello nazionale. Quest'anno Milano ha completato la nuova linea di metropolitana che porta la rete a 100 km contro i 62 di Roma, che pure è il doppio della popolazione e un'estensione molto maggiore. Vi sarebbero altri dettagli, comunque questi che vi ho detto sono sufficienti ad alimentare questo confronto tra le due città. Comunque queste le notizie in breve, ora il primo tema di Focus Economia. Seconda ed ultima giornata della visita della delegazione di industriali italiani in Iran, guidata dai ministri dello sviluppo economico Guidi e degli esteri Gentiloni. La delegazione di industriali in visita ieri ed oggi è composta da ICE, SACE, ABI, Cassa Depositi e Prestiti e Fondo Strategico Italiano, associazioni di categoria come Confindustria, ANCE, Fiera Italiane, aziende come Ansaldo, Energia, Finmeccanica, Eni, Anas, Unicredit, Terna, Fincantieri, Edison, Galileo e Trevi, perché parliamo di questa importantissima missione. Ricordiamo che l'accordo sul nucleare raggiunto il 14 luglio e la conseguente revoca delle sanzioni verso l'Iran apre per le imprese italiane opportunità per un aumento dell'export di 3 miliardi di euro nei prossimi 4 anni. Questa è una stima di SACE. I settori con le maggiori opportunità da cogliere saranno petrolio e gas, automotive, la difesa, i trasporti e le costruzioni. Spazi anche per l'arredo e il tessile. Ad oggi la meccanica strumentale rappresenta il 57% delle esportazioni italiane in Iran, seguono a grande distanza chimica e metallurgia. Ma degli aspetti più propriamente economici ne parleremo tra breve. Io ringrazio per il collegamento Alberto Negri, il collega del Sole 24 Ore, inviato proprio a Teheran. Grazie Alberto. Grazie a voi. Alberto, tu nel pezzo oggi sul Sole 24 Ore parli di effetto Vienna su Teheran, intendendo sia l'aspetto economico ma socialmente, ma soprattutto un nuovo vento di liberalizzazioni che forse si riescono a percepire nella capitale iraniana. Ma sì, vedo anche il pezzo sotto su Rohani. Spiego anche qual è il vento di questa liberalizzazione, che è un vento soprattutto economico, di liberalizzazione economica. Credo che anzi l'Iran imboccherà una sorta di strada un po' alla cinese, cioè liberalizzazione economica ma stretto controllo sull'attuale sistema, sull'attuale regime, anche se avremo e abbiamo dei segnali di liberalizzazione anche nella società, ma non illudiamoci troppo, non cambia oggi il sistema dell'Iran da un momento all'altro, quello della Repubblica Islamica rimane. E credo che comunque chiave rimarrà con la questione del petrolio. Oggi sono stato al Ministero del Petrolio, ho incontrato il ministro Bijan Zanganè e c'era anche, oltre al ministro degli esteri Gentiloni e quello dello sviluppo economico, c'era anche Descalzi dell'ENI. E qui si possono dare due notizie. La prima è che l'ENI riavrà indietro i suoi 800 milioni di dollari che gli dovevano gli iraniani per l'impianto di Darqueni. E la seconda, che gli iraniani promettono a dicembre di presentare nuovi contratti petroliferi importantissimi. Il petrolio è quello che regge tutto il sistema della Repubblica Islamica di oggi, come lo reggeva allora quello dello Shah. Quindi ecco Alberto, noi parliamo in maniera anche ottimistica di altri campi di investimento, dalle infrastrutture all'automotive, ma secondo la tua presenza poi tra l'altro lì a Teheran, il petrolio resta l'elemento di maggiore attrazione anche per quanto riguarda l'economia italiana. Ma rimane il motore principale di tutto, perché è quello che paga il 50% dei bilanci dello Stato e degli investimenti ancora di questo paese, ed è il 60-70% del valore delle esportazioni dell'Iran, quindi è fondamentale anche per poi avere gli investimenti negli altri settori importanti che tu hai citato molto bene, sono quelli dell'automotive, sono quelli delle infrastrutture. Per esempio oggi c'è stato un incontro tra Gentiloni e il presidente Rohani, dove Rohani ha indicato alcuni settori interessanti per loro, che sono quelli per esempio anche dell'alta velocità ferroviaria, qui c'è la Finmeccanica con Moretti, quelli della sanità, quelli delle energie rinnovabili, quelli della meccanica, ma i settori in cui l'Italia è coinvolta sono quasi tutti quelli importanti, e non solo per le grandi imprese ma anche per le piccole e medie. Vedremo se le linee di credito che la SACE ha fatto intravedere, SACE Mediobanca ha parlato di linee di credito nei prossimi anni per 3 miliardi di euro, saranno molto importanti per facilitare l'export in questo paese. Naturalmente tutto sotto a condizione che appunto a gennaio, dopo il rapporto delle Nazioni Unite e della IEA, si avrà la cancellazione delle sanzioni, soprattutto di quelle finanziarie e bancarie che sono fondamentali per operare in questo paese. Ecco Alberto, ricordavamo tra l'altro che prima dell'inasprimento delle sanzioni l'Italia era il primo partner commerciale di Teheran, e adesso probabilmente tu ce lo puoi confermare, l'Italia anche fisicamente in queste prime visite in Iran è arrivata comunque dopo Francia e, se non sbaglio, Germania. Considerando che c'è una presenza storica negli ultimi anni della Cina in Iran, che facciamo? Arriviamo sempre un po' tardi in questi casi? Dunque, innanzitutto l'Italia era il primo partner economico tra gli europei prima delle sanzioni nel 2011, parliamo sempre di europei, e ce la battevamo con la Germania per primo e secondo posto. Il fatto che l'Italia sia arrivata terza nell'ordine non vuol dire assolutamente nulla, perché qui è una questione, innanzitutto la visita del ministro tedesco era stata programmata molto tempo prima, e l'Italia invece qui ha proprio un ruolo di primo piano con rapporti che non sono soltanto economici, di affari, ma anche culturali e politici, e oggi proprio il presidente dell'assemblea degli esperti del discernimento, che era Sfangiani, che è stato presidente, è uno degli uomini più importanti della Repubblica Islamica, ha ricordato proprio questo ruolo preminente dal punto di vista politico, fondamentale. Cioè, l'Italia non ha mai abbandonato questo paese anche nei momenti più duri della guerra contro l'Iraq, e aiutò anche lo sforzo bellico degli iraniani. Queste sono cose che sono rimaste scolpite nella memoria dei leader della Repubblica Islamica, e quindi l'Italia avrà sempre un occhio di riguardo, come l'ha avuto questa visita, addirittura accompagnata da segnali importanti, la commessa della FATA l'altro giorno, ci sono state nelle visite precedenti altri annunci del genere, ma soprattutto ha proprio l'atteggiamento da parte di Rouhani, del ministro degli esteri Javad Zarif, che ha offerto un pranzo alla sera, cosa che lui non fa mai, nonostante avesse avuto un'operazione di denti veramente devastante. Cioè, gli iraniani hanno dimostrato in molti modi durante questa visita che per l'Italia c'è un occhio di riguardo, ma la cosa fondamentale, quello che ci permetterà di competere in questo paese, ribadisco, sono gli aspetti finanziari e bancari che devono accompagnare le nostre imprese su questo mercato dove la nostra presenza è storica. Ecco Alberto, un'ultima domanda, colgo l'occasione di averti nostro ospite, ma ti ascoltiamo spesso nei giornali radio per la tua esperienza anche sull'evoluzione geopolitica degli scenari di crisi del Medio Oriente, cosa e quale potrà essere anche il ruolo dell'Iran come ruolo di pacificatore in quella area che va dal Mediterraneo fino a Teheran, e l'Italia cosa hai visto, qual è il messaggio che può portare a Teheran? Beh, direi che prima di tutto bisogna considerare che il Medio Oriente è una regione dove non ci sono angeli, ma soltanto diavoli. Nel senso che, attenzione, in questa regione tutti difendono i propri interessi con le unghie e con i denti, con tutti i mezzi, violenza compresa, guerre compresa. E quindi anche l'Iran ha un ruolo importante, come l'hanno tutti gli altri, come la Turchia, come lo ha l'Arabia Saudita, come lo ha ovviamente la Siria e l'Iraq, dove si sono in corso dei conflitti. Ci sono i segnali importanti, il segnale l'ha dato anche il ministro degli esteri dicendo che l'Italia considera l'Iran un paese da coinvolgere in tutti i progetti regionali. Vediamo l'attualità strettissima, in queste ore sono arrivati qui il vice ministro degli esteri russo Bogdanov e il ministro degli esteri siriano. Cosa significa questo? Significa che Mosca, Damasco e Teheran in qualche modo stanno esaminando delle ipotesi di opzioni per cercare di risolvere la questione siriana. Forse non ultimo un'uscita di scena di Assad, se verrà garantito in qualche modo una transizione ordinata da un regime a un altro, da una situazione a un'altra. L'Iran ha un ruolo fondamentale, certo, in Libano con la sponsorizzazione degli Hezbollah, ha un ruolo fondamentale in Siria, ha un ruolo fondamentale in Iraq, dove addestra le milizie sciite contro i jihadisti. Bene, se in qualche modo si vuole battere il terrorismo, se in qualche modo si vuole cercare di contenere il disastro devastante che ha travolto questa regione nell'ultimo decennio, l'Iran non può essere tenuto fuori. Grazie ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore in collegamento da Teheran. Grazie ancora per la tua riflessione sia sugli aspetti economici ma anche su quelli geopolitici della visita della delegazione italiana. Continuiamo a parlare di questo argomento. Ripetiamo e ribadiamo una notizia che Alberto ci annunciava: la visita della delegazione istituzionale italiana in Iran rappresenta una luce verde per la futura presenza sicurezza delle società produttrici, lo ha detto il ministro iraniano del petrolio Zaghaneh. Le aziende italiane, ha aggiunto, prima acquistavano greggio direttamente da noi, ma abbiamo avuto problemi a causa delle sanzioni. Sul capitolo Dark Wine l'accordo è stato trovato, ci riferiamo adesso all'altra notizia relativa all'Eni, lo ha annunciato l'amministratore delegato dell'Eni Descalzi, riferendosi ai crediti per un totale di 800 milioni che la società petrolifera vanta nei confronti dell'Iran. Abbiamo anche delle testimonianze del ministro dello sviluppo economico Guidi, che dice: giocheremo la nostra partita rispetto ai nostri amici partner europei, proponendo la nostra tecnologia ma anche la nostra mentalità per una collaborazione di lungo periodo, creando joint venture con impianti produttivi in loco. Allora possiamo ascoltare il ministro Guidi. L'Iran sta cercando non solo prodotti ma partner di lungo periodo, con imprenditori disponibili a stabilire qui delle relazioni produttive, industriali, commerciali, con un'ottica di prospettiva lunga, ed è esattamente il modello industriale che non solo la grande impresa, ma direi prevalentemente la media impresa italiana ha in giro per il mondo. Queste le parole del ministro dello sviluppo economico Federica Guidi. Ed ancora, la FATA, azienda della Galassia Finmeccanica in Iran, ha firmato un contratto da 500 milioni per una centrale elettrica a ciclo combinato, lo ha annunciato il ministro Guidi. Ed ancora è presente a Teheran l'amministratore delegato di Finmeccanica Mauro Moretti, che dice: i primi contatti tra Finmeccanica e l'Iran dopo lo storico accordo sul programma nucleare iraniano sono molto positivi, adesso si tratta di riaprire canali e di offrire partnership alle industrie iraniane. Ascoltiamo Moretti. Abbiamo riaperto già i canali con i nostri rappresentanti qui in Iran in questi giorni, già i primi contatti sono molto positivi. Vedete che gli alberghi di Teheran sono pieni di delegazioni, vorrà dire qualcosa, vorrà dire. Quindi ottimismo anche da parte dell'amministratore delegato di Finmeccanica Moretti. Ed ancora, l'Iran è un paese in cui c'è tutto da fare, così l'AD di Mediobanca Alberto Nagel. Guarda al paese medio orientale con cui ieri la banca, insieme al Ministero dello Sviluppo Economico e Sacia, ha firmato un accordo con l'obiettivo di facilitare lo sviluppo di future relazioni economiche e commerciali tra i due paesi. Visto che siamo alle 17.35, direi di fermarci un attimo, continuiamo alla ripresa dopo meteo e pubblicità, il tradizionale appuntamento con la borsa, ma riprendiamo sempre dall'Iran. Focus Economia. Sette Focus Economia. Stavamo parlando prima della pausa della visita in Iran della delegazione governativa, più le imprese italiane proprio a Teheran. Ricordiamo l'accordo sul nucleare raggiunto il 14 luglio e la conseguente revoca delle sanzioni verso l'Iran apre per le imprese italiane opportunità per un aumento dell'export di 3 miliardi di euro nei prossimi 4 anni. L'Italia ha bisogno di ricostruirsi e l'Italia è in grado di coprire tutti i settori di maggiore interesse: costruzioni, oil e gas, macchinari, impianti, medicale, energia, beni di consumo. Abbiamo sentito su questi temi Licia Mattioli, presidente del Comitato Tecnico per l'Internazionalizzazione e gli Investitori Esteri di Confindustria. Ascoltiamo. Presidente Mattioli, l'accordo di luglio sul nucleare riapre le porte del mondo occidentale all'Iran. Quali sono le potenzialità, secondo lei, dell'economia iraniana per le nostre imprese? Ma innanzitutto diciamo che noi ancora oggi siamo il settimo fornitore, ancora oggi nel 2014 siamo stati il settimo fornitore con una quota di quasi 2%, no? Come partner commerciale dell'Iran, quindi sicuramente è un mercato che per noi è molto interessante. Le relazioni tra i due paesi hanno continuato, anche se ovviamente non in maniera commerciale, se non poco, in tutti questi anni, quindi direi che per noi può essere un mercato di sbocco interessantissimo, e non solo per l'oil and gas, che sicuramente è uno degli interessi del nostro paese, ma anche per altri settori completamente diversi ma altrettanto importanti per il nostro export. Ecco, quindi non solo oil e gas, soprattutto quindi mi sembra di capire infrastrutture, c'è cioè un paese non da ricostruire perché l'Iran è comunque un paese avanzato, ma vi sono tanti settori di interesse per le nostre aziende, quali sono quelli non oil e gas? Dunque, innanzitutto noi abbiamo tutta la parte, come citava giustamente lei, infrastrutture, che è molto importante, perché nella parte infrastrutture abbiamo tutta la parte di ricostruzione del paese. Noi sappiamo che questo è un paese che è uscito da una rivoluzione ormai da tanti anni, ma comunque c'è ancora tanto da fare, e in questo noi potremmo essere sicuramente un partner molto importante. Abbiamo loro costruiscono, se non ricordo male, circa 200 milioni di abitativi all'anno, e ne hanno un bisogno per più di 4 milioni. Quindi si immagini lo spazio che ci può essere per le nostre imprese di costruzione. Dopodiché, sempre per quanto riguarda il discorso costruzioni e infrastrutture, c'è tutta la parte aeroporti che deve essere implementata. C'è un investimento sull'aeroporto internazionale che dovrebbe essere circa di 2 miliardi e mezzo di euro, quindi anche qui ovviamente c'è grandissimo spazio. Devo dire che anche su questi temi ci sono già delle nostre aziende che erano già presenti prima della rivoluzione, hanno continuato ad essere presenti lì, ma ovviamente hanno diminuito il valore delle loro operazioni, e adesso stanno riprendendo. Teniamo presente che l'anno scorso c'è stato un aumento di quasi il 10% delle nostre esportazioni in quel paese. Certamente. Presidente, venendo dietro a quello che lei diceva, ricordo solamente che prima dell'inasprimento delle sanzioni, deciso, lo ricordiamo, nel 2011, l'export Italia-Iran valeva 7 miliardi di euro, l'Italia era primo partner commerciale di Teheran e quasi tutte le grandi imprese italiane erano presenti nel paese. Ora, secondo le stime, nei prossimi 4 anni potremmo riprendere un gap di 3 miliardi di euro. Euro. Sono corretti questi dati? E poi le chiedo, a questo punto, eravamo il primo paese con l'Iran, nell'export dell'Iran, adesso non rischiamo di essere dietro a tedeschi, francesi e soprattutto cinesi? Sicuramente il pericolo non tanto degli europei, che ci sono sempre stati con noi, no? In maniera più o meno presente, ma quanto degli altri paesi, mi riferisco alla Cina, c'è ed è cresciuto in questo, anche la Turchia per esempio, ed è cresciuto nel periodo in cui noi siamo stati bloccati da tutte le sanzioni. Però diciamo che noi abbiamo delle caratteristiche come imprese che in quel paese sono molto richieste. Le faccio un altro esempio: nell'automotive, di cui non abbiamo parlato, un altro settore in cui noi abbiamo molti spazi. Loro contavano 1,5 milioni di immatricolazioni nel 2011, immatricolazioni che poi sono crollate. Adesso la SACE prevede che si arriverà a un valore di oltre 2 milioni delle immatricolazioni di auto appena l'embargo verrà rimosso completamente. Quindi vediamo anche lì, nell'automotive, dove noi siamo fortissimi, dove le nostre imprese erano già andate, che ci potrebbero essere dei grandissimi spazi di crescita. E poi loro vogliono sviluppare moltissimo tutto quello che è il settore piccole e medie industrie, dove noi italiani siamo fortissimi, molto più dei tedeschi e dei francesi, quindi possiamo andare ad insegnargli delle cose. C'è spazio in Iran anche per le piccole e medie imprese, secondo lei? Assolutamente, noi avremo in previsione una missione ad ottobre, sempre con il governo, con il viceministro Calenda, su questi argomenti delle piccole e medie imprese. Teniamo presente che tutto quello che non abbiamo parlato, le macchine, i macchinari, quindi del tessile, quelli che lavorano la pietra, i marmi, quelli che lavorano i cuoi, sono molto richiesti, e lì anche l'agroalimentare, tutto quello che riguarda l'impacchettamento e la trasformazione dell'alimentare, sono molto richiesti, sono già in parte italiani, e lì abbiamo degli spazi di crescita mostruosi. E non dimentichiamoci che per noi l'export di queste macchine rappresenta una quota importantissima dell'export italiano. Assolutamente. E poi un'ultima domanda: leggevo che comunque l'Iran, per quanto sia stato chiuso per alcuni aspetti al mondo per vari motivi, è comunque uno dei paesi con un alto tasso di popolazione giovane, che guarda anche al modo di vivere e di consumare occidentale, quindi forse vi sono delle opportunità anche per marchi della moda e dell'alimentare Made in Italy. Sì, non dimentichiamoci che prima della rivoluzione era un paese molto avanti rispetto a tutti questi temi, quindi sì, con una popolazione che comunque ha voglia ed è stata abituata come famiglia a un certo tipo di vita, ovviamente si ritornerà poi alla ricerca di un gusto occidentale. Quindi c'è spazio, c'è ricchezza, c'è popolazione che cresce, il nostro fashion sicuramente trova molto campo libero per entrare, questo sicuro. Infatti anche le aziende del sistema moda, degli accessori, quindi gioielli, di scarpe e borse, saranno parte di questa missione di ottobre. Grazie dunque a Alicia Mattioli, presidente del Comitato Tecnico per l'Internazionalizzazione degli Investitori Esteri di Confindustria. Andiamo ora veloce, la giornata di borsa, tornano gli acquisti sui listini europei dopo la pausa di ieri con un'accelerazione per tutte le borse continentali. È con noi Eleonora Micheli, Radio Cor Sole 24 Ore. Buon pomeriggio Eleonora. Intanto vi dico, in attesa di Eleonora, che il FTSE MIB ha chiuso in terreno positivo più 1,87%, dicevamo Eleonora, FTSE MIB più 1,87%, bene i bancari dopo i risultati Unicredit e Mediobanca. Sì, infatti oggi è stato un giorno diciamo di focus sui bancari, con Unicredit che a metà giornata ha pubblicato i conti e subito ha preso il volo mettendo a segno la performance migliore del FTSE MIB. Nel secondo trimestre infatti l'utile del gruppo è migliorato del 29,5%, attestandosi a 522 milioni oltre le attese degli analisti, anche se va detto che il risultato netto del primo semestre è invece calato del 7,3% a 1 miliardo. C'è stato poi anche l'annuncio di un nuovo assetto organizzativo con Roberto Nicastro, attuale direttore generale, che lascerà il gruppo a partire dal prossimo 1 ottobre. Per quanto riguarda invece Mediobanca, quest'oggi l'istituto ha pubblicato i conti relativi all'anno 2014-2015, che si è chiuso con un utile in progresso del 27% a 590 milioni e inoltre l'istituto ha annunciato una cedola in progresso a 25 centesimi e ha inoltre annunciato anche l'acquisizione oltre manica di Kern, del gruppo Kern attivo nella gestione del risparmio. I titoli sono stati premiati con un rialzo quasi pari al 2%, dell'1,97%. E questo per quanto riguarda Unicredit e Mediobanca. Eleonora, Campari ancora bene dopo i conti diffusi ieri? Ieri Campari ha diffuso conti in crescita, subito le azioni sono partite in rialzo e questo rialzo non si è fermato, insomma le azioni continuano a brindare, anche oggi hanno fatto più 2,10%. E stavo guardando che vi è una netta ripresa dei petroliferi dopo il lieve rialzo comunque dei prezzi del greggio, evidentemente è un aspetto questo che attira gli investitori. Sì, guarda, in verità il prezzo del greggio ora proprio nelle ultime battute sta di nuovo leggermente arretrando, però fino a poco fa tentava ovviamente la rimonta e quindi questo aveva dato un po' di là all'acquisto dei titoli del settore petrolifero. Adesso è scambiato praticamente sui valori di ieri a 45,75 dollari al barile, si è riportato insomma al di sotto della soglia dei 46 dollari al barile. Peggio del mercato, quindi in terreno negativo, Telecom dopo i conti di Team Brasil con calo utile netto del 20%, domani il CDA per l'approvazione dei conti del gruppo. Sì, Telecom ha fatto peggio del mercato, ha guadagnato sì però solamente lo 0,8% contro l'1,8% del mercato, non sono piaciuti al mercato sinceramente i conti di Team Brasil che erano già attesi in calo ma non così in calo, in particolare la controllata brasiliana nel secondo trimestre ha registrato un utile in ribasso del 20,5%, domani ci sarà il consiglio di amministrazione a Roma di Telecom Italia, i conti saranno diffusi venerdì e saranno inoltre discussi con la comunità finanziaria. A questo punto non rimane che aspettare. E per chiudere, Eleonora, abbiamo già parlato di Finmeccanica, tante notizie anche dall'Iran, in questo caso in terreno positivo su indiscrezioni per una commessa dal Kuwait. Esatto, oggi è stato il messaggero a riferire che Finmeccanica potrebbe aggiudicarsi una maxi commessa da ben 11 miliardi di euro in Kuwait. Ovviamente a partecipare alla gara sarebbe Alenia Ermacchi insieme al consorzio Eurofinger, quindi non solo Finmeccanica, comunque il gruppo italiano ovviamente avrebbe un'importante quota di questa commessa da ben 11 miliardi. Il messaggero inoltre ha riferito che il gruppo avrebbe già ottenuto da un pool di banche un finanziamento da 4 miliardi proprio a servizio dell'operazione. Grazie, grazie ad Eleonora Micheli, Radio Cor Il Sole 24 Ore, adesso il traffico e poi l'Ilva di Taranto. Focus Economia. Thank you. Ed eccoci ancora qui, 17.50, Focus Economia. Chiudiamo l'ultima parte della trasmissione, la dedichiamo all'Ilva. Domani l'Ilva di Taranto avvia la riaccensione dell'Alto Forno 1, fermo da 2 anni e mezzo per essere messo a regola con le prescrizioni ambientali. L'Alto Forno produrrà circa 5.400 tonnellate di ghisa al giorno, portando la capacità complessiva dello stabilimento, che dovrebbe così raggiungere il 60% del valore massimo. Ma la notizia più importante forse è quella di 400 addetti che torneranno al lavoro. E a causa delle difficoltà dello stabilimento tarantino, la produzione siderurgica italiana è scesa di oltre il 10% nei primi 6 mesi del 2015. Ne ha scritto oggi sul Sole 24 Ore il collega Domenico Palmiotti, del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio Domenico. Buon pomeriggio. Qual è la notizia più importante? È quella per Taranto dei 400 addetti che torneranno al lavoro, o in generale per il nostro paese sotto l'aspetto proprio della capacità produttiva di produrre acciaio? Diciamo che la notizia del ritorno al lavoro per 400 persone è molto importante, perché sono persone che escono dal contratto di solidarietà, nel quale erano in una situazione in cui erano da me da qualche tempo, quindi sono persone che tornano al lavoro, ma soprattutto questo ritorno al lavoro di 400 unità è il segno di un'azienda che pian piano, pur fra mille difficoltà e problemi che ancora permangono, comincia a risollevarsi, comincia a camminare sulle proprie gambe, perché non esiste soltanto, non c'è solo la buona notizia della riaccensione dell'Alto Forno 1, ci sono una serie di notizie che dal punto di vista aziendale e produttivo sono importanti. La ripartenza dell'Alto Forno 1 è sicuramente una di queste. Nei giorni scorsi è ripartita anche l'acciaieria 1, che era stata fermata per i lavori di ambientalizzazione, e sono tornati a lavoro altre 299 persone. Inoltre oggi il Senato, votando la fiducia al decreto legge fallimenti, ha fatto diventare legge anche, certo, le norme sull'Ilva, quelle che consentono che l'azienda possa andare avanti pur avendo un impianto sequestrato. Appena un e questo mese è importantissimo. Fa, certo, perché... appena un mese fa questo decreto, certo, il 4 luglio era stato varato dal governo, un mese dopo queste norme, sia pur in un'altra legge e non più come decreto autonomo, sono appunto diventate legge, quindi hanno maggiore efficacia e sono state appunto convertite in legge. E inoltre a ciò si aggiunga che c'è anche una ferita per l'aspetto produttivo dello stesso Alto Forno 2, perché la procura, è attesa da parte della procura il dissequestro, però bisogna vedere se è un dissequestro tout court o un dissequestro con facoltà d'uso dell'Alto Forno, dello stesso Alto Forno. Ecco, impianto Domenico, che dimmi. No, certo, dicevamo che si tornerebbe così al 60% del valore, sì, massimo con l'Alto, certo, Forno torna... numero 1, ma per far capire ai nostri ascoltatori, per tornare alla piena produzione pre-crisi, tra virgolette, di Taranto e dell'Ilva, da una parte cosa resta, se ci sono ancora degli altiforni da rimettere in moto, certo, o a livello produttivo, e soprattutto quanti lavoratori sono ancora fuori dall'impianto? Diciamo che sono fuori dall'impianto poco meno di 3.000 persone attraverso i contratti di solidarietà, che è stato un ammortizzatore sociale scelto 3 anni fa in alternativa alla cassa integrazione, perché meno impattante dal punto di vista economico. Perché l'Ilva torni alla piena produzione occorre che si verifichino 2 condizioni, una impiantistica, e questa impiantistica l'avremo l'anno prossimo di questi tempi, quando tornerà a produrre l'Alto Forno 5, che è il più grande dello stabilimento, il più grande d'Europa, che è stato fermato a marzo scorso per i lavori appunto di risanamento ambientale, lavori che saranno avviati a settembre e si concluderanno nel giro di un anno. Quindi la piena efficienza impiantistica dal punto di vista degli altiforni l'avremo tra un anno. Inoltre occorre la condizione del mercato. I 3 anni che sono trascorsi da luglio del 2012 ad oggi hanno segnato molto l'azienda, perché sequestri, iniziative giudiziarie, scioperi ne hanno minato la credibilità e l'immagine presso importanti clienti nazionali e internazionali. Questo anche, certo, unito alla crisi di mercato ha fatto sì che l'Ilva perdesse terreno. Un'ultimissima domanda, scusami Domenico se vado veloce ti metto fretta, rimane un punto molto importante, che è quello dell'indotto, ne scrivi anche tu oggi sul Sole 24 Ore, quello è un tema tuttora aperto. Sì, l'indotto teme denunce delle difficoltà sia per i crediti pregressi, quelli prima dell'amministrazione straordinaria, sia quelli per la gestione corrente. Venerdì prossimo ci sarà però un incontro tra Confindustria Taranto e il direttore generale dell'Ilva Rossini, sono attese delle buone nuove sul fronte dei pagamenti, vedremo quello che accadrà. Grazie a Domenico Palmiotti del Sole 24 Ore. Sfrutto gli ultimi due minuti, un minuto e mezzo della trasmissione, per una conferenza stampa che si è conclusa da poco del Presidente del Consiglio Renzi sulla pubblica amministrazione. La riforma, lo ricordiamo, è passata ieri al Senato. Renzi dice le norme sulla PA segnano un ulteriore tassello del lavoro di modernizzazione del Paese. Ascoltiamo allora un passaggio del Presidente del Consiglio. Il lavoro che hanno svolto i parlamentari è un lavoro straordinario in questo anno e che ha portato a riformare dalla pubblica amministrazione, l'ultima arrivata in termini di approvazione di legge, alla legge elettorale, alle varie letture della riforma costituzionale, alle norme sulla giustizia, contro la corruzione, alle norme che hanno consentito di sbloccare il mercato del lavoro, alle iniziative di natura economica sulle banche, ma anche alle iniziative della legge di stabilità, dove si sono trovate delle risorse per gli 80 euro e anche per, come sapete, l'abolizione della componente lavoro dell'IRAP. Potrei continuare e forse annoiarvi con un elenco, quasi una cantilena di provvedimenti attuati. Non era mai accaduto nella storia repubblicana che tante riforme fossero fatte tutte insieme. Quello che però vorrei segnalare è che se è vero che l'Italia sta meglio di un anno fa grazie alle riforme fatte, noi abbiamo ancora molta fame. E la fame porta a dire che molte delle cose che dobbiamo realizzare saranno oggetto del lavoro dei prossimi mesi. Queste dunque le parole del Presidente del Consiglio, che dice la riforma prevede anche una drastica riduzione delle società partecipate. Vedremo se sarà così. Per oggi è tutto. Un ringraziamento a Mauro Del Corno per l'assistenza al programma, ad Alessandro Chiappini e Pietro Lacorte in regia. Un saluto da Vincenzo Miglietta.